24 mattino. 8, 18 minuti, 29 secondi, cani e gatti, Oscar Giannino ha la solita montatura gramsciana, la sua pelata gandiana e un bellissimo maglione color cammello. Hai visto, caro fratello? Hai visto, caro fratello, il gatto subito annuncia la grande novità della Sicilia. Cominciamo bene, hai visto? Sì. Il primo arresto del neo deputato regionale De Luca dell'UDC, che sostiene Musumeci per evasione fiscale. Si voleva candidare sindaco a Messina, in galera! No, dai, Oscar, sii garantista. L'apertura del sito di Repubblica. Ecco, ma non puoi essere garantista, non puoi porti la domanda, ma magari è innocente. La domanda, però, la politica così, capisci? Cosa vuoi che arrivi? Poi si chiedono perché la gente vota la protesta. Sì, perché? Allora, probabilmente avevano aspettato per tutta la campagna elettorale, c'erano pronto, non hanno voluto turbare il voto. Non hanno voluto turbare, detto questo, eccoci qua. Si comincia bene, direi. No, invece io ti volevo segnalare, ho tenuto per te questa cosa di Libero. Confisca della casa. Non so se hai visto, c'è l'intervista fra l'altro dell'avvocato di Corona che attacca, ma potrebbe essere chiunque, dice: è pericoloso che adesso con le nuove norme i giudici possano, come prima si faceva solo con mafiosi e narcotrafficanti, possano estendere dal 6 settembre il sequestro cautelativo anche a tutti i patrimoni di soggetti a pericolosità non qualificata, quindi si può essere imputati e si può avere il sequestro della casa. Che ne pensi? Io penso che l'estensione della norma dei poteri cautelari per reati diversi da quelli di tipo eccessivo, mafioso o delinquere, sia stata eccessiva, e l'ho detto non solo per gli imputati intesi persone fisiche, ma la cosa riguarda anche reati che hanno a vedere con le imprese. Per esempio, la classica cosa che mi ha molto colpito è l'estensione di questi poteri per le imprese che finiscono partecipando a gare pubbliche ad essere indagate per reati contro la pubblica amministrazione. Chiunque abbia esperienza di partecipazione a gare pubbliche sa che la possibilità di finire in violazione della legge e soprattutto in indagini a strascico sulle imprese che partecipano alle gare, al di là di responsabilità individuali, perché non sto parlando dell'ipotesi in cui c'è un imprenditore che ha pagato una tangente, è molto elevata per come funziona la lambiccata legislazione delle gare italiane. Quindi anche in quel caso io rimango molto molto molto perplesso. E nessun dibattito su questo, è andata liscia. Invece il grande accordo, l'avete sentito anche nel nostro ottimo giornale radio, le navi da crociera destinate al Canal Grande di Venezia adesso attraccano a Marghera. No, ma perché immagino l'entusiasmo a bordo. Andiamo a vedere Porto Marghera, con tutto il rispetto del Porto Marghera, ma anche, che so, se fosse un luogo a me molto vicino come Porto Torres. Insomma, è una bella contraddizione. Privilegi il bene culturale o la crociera? Tu sai che le reazioni del comitato No Grandi Navi è stato scandalizzato, ha detto che questo provvedimento del governo è peggio del nulla, che la somma di due misure già bucate, perché loro volevano che le navi non entrassero più in laguna in nessun caso, in nessun modo. Come sempre gli oltranzismi, io rispetto le opinioni di tutti, io penso che le soluzioni che possono esistere sono quelle da praticare, e quelle migliori sono quelle che non levano il flusso del turismo a Venezia e contemporaneamente non mettono a rischio il bacino di San Marco. Ah, sì, anche perché teoricamente, a parte le battute, credo che con questo tragitto si potrà vedere benissimo la silhouette, la skyline, come si dice, di Venezia, no? Sì, sì, e soprattutto non si devono, così si evitano, voglio dire, sbarchi e imbarchi complicati fuori dalla laguna, perché quelli avrebbero un impatto serio sullo scalo delle compagnie turistiche, questo non c'è dubbio. Mentre invece in Marghera sei comunque in laguna, questo è l'essenziale, cioè preservare un maggior rispetto del delicato ecoambiente della laguna e dei palazzi storici, gli insediamenti che sono esattamente di fronte al bacino di San Marco, col fatto di non privarsi di risorse, di flussi economici, di quella importantissima parte d'economia che è l'economia del turismo a Venezia. Allora, Claudio da Reggio Emilia, e cominciamo a scaldarci. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Volevo ci ascolti intervenire... tutti i giorni, tu ci ascolti tutti i giorni? Sì, tutti i giorni vi ascolto. Ma bene, così sembra ottimo. L'espiazione di una pena. Eh no, è importante. Sai all'ergastolo tutti i giorni. No. sì, no, ascolto perché siete in gamba, appunto. Vai. Volevo intervenire in trasmissione per dire il mio pensiero su quel chiacchierone che ha perso le elezioni in modo prevedibile per me. Uno come lui, che aveva avuto il 40%, pensava di essere immortali, io l'ho votato, poi alla fine se salvi le banche che sono legate al PD, se Jussori e quant'altro, tu sei destinato a passare in coda. Se mi avesse telefonato io gli dicevo come doveva fare per rimanere. E come doveva fare? E diccelo, dai. Doveva fare che... E la rottamazione ha fatto benissimo perché era arrivato al 40% quando ha detto che rottamava. Poi nel suo partito non c'è rottamazione, non c'è coalizione. Ci sono messi insieme 10 anni fa per spacchiare il giaguaro, ma non avevano anime per stare insieme. Infatti i governi sono caduti perché all'interno non avevano anime che portavano tutti in un verso. Perciò alla fine Renzi, poveretto, un grande chiacchierone che alla fine pagherà della sua esuberanza e la sua sfacciataggine. Era questo il mio pensiero. Bene, allora 800 24 00 24, Oscar, questa idea che racconta Repubblica, Ciriaco su Repubblica, ci dice che Renzi vuole macronizzare, eh? Vuole macronizzare. Secondo te, la domanda che ti faccio è possibile fare, ispirarsi, assumere la replica di un modello che fonda un partito ex novo con una personalità che ha rifiutato carriere politiche precedenti e inizia la sua carriera politica ex novo? E questo, Renzi, il PD è un movimento ex novo fondato fuori dai partiti contro i vecchi partiti? A, B, lui ha le caratteristiche, il pedigree di essere uno che ha rifiutato l'ingresso in politica sotto altre vesti e sotto altre marche con altri patroni e inizia adesso? La risposta a queste due domande è no. Quindi la conseguenza... Ho capito, a te non ti piace o presepe. No, non mettiamola così. Io faccio l'analista perché sono Valerio anche abbastanza stufo di questa storia per cui a criticare i personaggi politici pro tempore sulla base di fatti ci sono tutti i fan che ti accoltellano. Io ho persone, per esempio, che mi stupiscono. Claudio Velardi è una persona intelligente, ogni volta oramai riduce la faccenda o stai con Renzi o sei un cretino. Claudio, è possibile mai? Te lo chiedo proprio... ieri, non so, hai visto l'intervista ieri sera? Che pensi, Luca? Penso che lui si sia trincerato, che abbia questa speranza di vincere e che debba crederci, e le persone che sono intorno a lui sono così fedeli da crederci. Però il mondo fuori non ci crede, Berlusconi galoppa, e questa idea che il ballottaggio di Ostia sia uguale al ballottaggio di Roma, cioè destra 5 Stelle, è un'idea forte, cioè se non cambia qualcosa non riprende in mano il cerino. Questo proprio molto, lo dico laicamente, tanti del PD che ci ascoltano, così non vince, convince i suoi ma non vince. Poi no, ma io dico di più, cioè quando avevo un rapporto extra giornalistico con Renzi, prima delle primarie del 2012, di interlocuzione personale, certo, ogni volta che ride. detto questo, e quando ci furono le primarie con Bersani il segretario, quindi stiamo parlando della fine del 2012, e il ragionamento che si faceva era: non te le daranno mai le primarie aperte come Prodi, come ovvio, perché la macchina del partito pensa che sia giusto che siano tra gli iscritti, quindi le vincerà Bersani. Lui dice: ah, vediamo. A quel punto si è posto per me, per Renzi, il vero punto, se era un Macron o meno. Perché quando gliene negarono, lui passò alcuni giorni a meditare, butto il tavolo per aria, minacciò, esco e me ne fa, esatto, oppure no. Sì, sì. Poi a quel punto ha scelto un'altra strada. Ora, fare il leader del PD continuando a perdere i pezzi e adesso annunciando con un incontro torno alla mia natura e faccio benissimo solo me stesso. Se fai solo te stesso, fai un altro partito. Però ecco, questo è, per me è un limite che mi rende incomprensibile questa cosa. Cioè, non devi tenere conto di qual è la constituency alla cui testa sei. Non è che puoi dire: la trasformo improvvisamente in una mia cosa personale. Però può essere che io sbagli. ti dicevo, dal pezzo di Bechis sugli scarafaggi e gli scorpioni a Palazzo Chigi, che è epocale, no? C'è anche una stanza che è stata infestata da coleotteri volanti. Ma e ridi, ma è tutto vero, eh? Ma è tutto vero, ma di che cosa che ti sorprende? No, mi stupisce come le cavallette, come le locuste, no? I segni biblici, sì, di qualcosa che non funziona. Ma no, i segni biblici semplicemente il fatto che lo Stato è incapace di pensare a far funzionare bene qualunque cosa. Stato ladro! Luciano, no, stato da Pavia. Luciano, Luciano, ci sei? Sì, sono qua, sono ecco, qua. Vai. Grazie, velocissimo, io rimango deluso di una cosa, dell'assenza dei programmi dei partiti, programmi che devono essere precisi, come quando in un'azienda si danno degli obiettivi. Io sono contento perché io voto sempre centrodestra, ma in realtà non ci sono i programmi di nessuno, né del centrodestra, né non è per dire, non so, che cosa vogliono fare. C'è qui, vedo visi sorridenti, si abbracciano tutti, gli altri invece piangenti, ma parlano di poltrone, di nomi. Io voglio sapere cosa fanno, con precisione, pochi punti chiari, e poi se non riescono, vediamo perché, magari sono successi dei fatti diversi, ma però invece non c'è niente di questo. Grazie. I programmi, Oscar, li scrivono, commissioni, saggi, poi finiscono in un cassetto. No, ma poi soprattutto, caro ascoltatore, quando con qualunque legge maggioritaria, insomma, sia solida, non come quelle italiane fatte ogni volta ad hoc senza ispirarsi mai a un modello funzionante di tipo qualunque nel mondo, però i programmi contano un pochino di più, perché poi obiettivamente, se dopo aver passato il tempo un po' a illustrarlo in campagna elettorale vinci il mandato a governare, beh, sei inchiodato, è giudicato da quello che farai rispetto a quello che hai detto. Con la legge elettorale che siano dati per deliberata consapevolezza il capo del PD e il capo di Forza Italia, soprattutto loro, poi si è aggiunta anche la Lega, cioè quella che non fa contare niente la vostra indicazione per una maggioranza coesa, cari ascoltatori, e quindi il programma diventa assolutamente superfluo. Tanto con una legge proporzionale e con l'idea che non c'è nessun mandato diretto degli elettori, poi i partiti restano a mani libera, qualunque cosa possano dire in campagna elettorale per i voti non sarà il banco a cui rimarranno inchiodati per essere giudicati dopo. Si sono costruiti le regole apposta e sono sfrontati nel negarlo. Bene, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo subito dopo, già un altro ascoltatore in attesa. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Tommaso Montanari con noi, critico e storico dell'arte, editorialista di Repubblica, anche leader di un movimento denominato Assemblea del Brancaccio. E perché? Che devo dire? No, ci sono Umile frate. Che scritto la firmata, cerchiamo di coordinare un popolo vasto e poco organizzato, che proprio ha nell'idea che il liderismo abbia rovinato la politica italiana, una delle sue convinzioni. Allora, partiamo da una cosa distante dalla politica. Oggi si discute delle navi che dovranno attraccare a Porto Marghera e non potranno più passare le navi da crociera per il Canal Grande. Come difensore del patrimonio culturale, è contento? Ma come si è spiegato molto bene anche oggi sui giornali, è una toppa peggiore del buco. No. Perché le navi non passeranno davanti al bacino di San Marco fra 2 anni. Ma il problema non è soltanto visivo, figurativo, il problema è più sostanziale, è la laguna. Se si scavano grandi canali per permettere comunque alle navi di entrare in laguna, si distrugge un equilibrio millenario. La laguna non ci sarebbe stata se la Repubblica Serenissima di Venezia non l'avesse governata. È un esempio meraviglioso di governo sostenibile dell'ambiente e del territorio da parte di un potere pubblico. E invece oggi tutto questo si sottopone all'idea demenziale che ci vogliono navi enormi in un posto piccolo e delicato. Nessuno è contro il turismo, il problema è che Venezia è una città, la laguna è un ecosistema fragile, non si capisce perché si debbano distruggere. Quindi, ma le navi distruggono quell'ecosistema? Beh, sono troppo grandi, si scavano canali tali che alterano probabilmente in modo irrimediabile la laguna, che è già messa maluccio. Il problema è molto semplice, ma davvero dobbiamo far entrare in laguna in qualunque modo siano le grandi navi? Non si potrebbe semplicemente pensare che il turismo deve essere sostenibile e non deve essere Venezia la laguna ad adattarsi alle grandi navi, ma il contrario. Questa è una misura cosmetica che farà danni. Lo dice molto bene Italia Nostra, lo dicono molto bene anche su Repubblica di oggi, è spiegato bene. Bene, questo era su Venezia. Noi abbiamo, Oscar ha espresso un'opinione diversa. Anche io penso che la mia opinione conta poco. Il problema è che seguo da anni la vicenda, i rapporti studiati, i rapporti preparati da fior di scienziati che hanno opinioni diverse sugli effetti che avrebbe questo intervento. Hanno opinioni diverse perché tanto il rischio secolare della laguna è che si interri, per esempio, non il contrario come si pensa. Quindi il problema è realizzare questi canali nel rispetto della laguna. L'alternativa è dire no, perché non è conciliabile. È un'alternativa che, su questo come su tante altre cose, è uno dei treni di confronto della politica. Tommaso Montanari è convinto molte volte, io lo leggo sempre assiduamente perché è un grande spunto intellettuale, che ci sia un'inconciliabilità elevata tra le frontiere della tecnologia, delle soluzioni avanzate e quelle di una tutela rigorosa dell'ambiente come dei beni ambientali. Sono opinioni diverse, però ci sono fior di studi, sappiamolo e diciamolo che è così. Poi si può dire io non sono d'accordo, ma non è fondata su una specie di idea gli unni e i barbari che se ne fottono della laguna. Ecco, solo per dire questo. C'è la realtà, c'è anche la realtà oltre le opinioni. Che cos'è Venezia oggi? L'emorragia di abitanti della città, il fatto che Venezia è ridotta a un terzo di quello che era qualche decennio fa, il fatto che ci sia un grande cartellone elettronico che conta quanti cittadini ogni giorno se ne vanno, questo è un dato di fatto reale. Cioè, un dato di fatto reale che non c'entra con le grandi navi, come sa perfettamente, perché è un fenomeno che va avanti dagli anni 70, quindi non c'entra con le grandi navi. No, invece c'entra esattamente con le grandi navi, perché l'idea che Venezia non debba essere una città, cioè non debba rendersi vivibile. Ah, capisco, lei dice una grande Disneyland, è ovvio che alla fine finisce. Ah, ho capito. Parte di questo progetto, le navi fanno parte di questo modo di vedere la città. Dalle terrazze dei veneziani prendono degli striscioni che ho scritto Venezia è una città, che sembra un'affermazione rivoluzionaria perché non è stata governata così. Il Mose, per esempio, fu voluto perché si pensava che si dovesse avere un rimedio meccanico per poter fare di Venezia quello che si voleva, come se uno mangiasse e bevesse quello che vuole e poi si sturasse. Ma no, però voglio dire che il governo delle correnti nelle lagune, voglio dire, l'Olanda ce lo insegna da secoli, o è contrario anche a quello? Certo. È contrario anche a quello? Ma figuriamo, ho appena detto il contrario, la laguna è una creazione umana, esatto, che c'è stata grazie a una politica avveduta, perché sennò si sarebbe interrata. Appunto. C'era moltissimo già nel 500 su cosa fare. Appunto. Il problema però è che negli ultimi decenni questo equilibrio è saltato e che la laguna non sta affatto bene ed è malata e che Venezia come città sta morendo. Cioè, se non si capisce questo, voglio dire, lo dice il New York Times, non lo dicono i giornali comunisti che pensano. Ernesto da Venezia, sentiamo un parere, cioè arrivano telefonate. Complimenti, ma non mi complimento per quello che sento. È difficile parlare di questi argomenti perché c'è grande faziosità, c'è grande falsità. Ci dia la sua idea. Prego? Ci dia la sua idea. No, la mia idea, mi riferisco un attimo a come avete presentato che non doveva essere presentato in questa maniera, cioè le navi arrivano a Marghera e non si vede Venezia, non è vero perché... Abbiamo detto il contrario, che la skyline si vede meglio perché c'è un angolo prospettico più ampio. Perfetto, lo sposo, se avete detto questo, lo sposo perché da Marghera a Venezia si vede in maniera splendida, esatto, ed è qualcosa di straordinario. Anche perché, sai, ci sono dalle 5 alle 10.000 persone che lavorano in questa città e che non la sfruttano, ma lavorano come indotto a questo circuito delle crociere. Bene, dire delle notizie che possono poi disincentivare la gente a venire a Venezia per fare una crociera, beh, questo è un attimo da stare attenti. Detto ciò, vorrei anche rispondere a questo signore che è Tommaso Montanari. Tommaso Montanari, storico dell'arte, ecco, di tuttologi che hanno queste persone che stanno, parlano e dicono cose sensatissime, però le dicono oggi delle cose che però non le hanno dette quando c'erano l'inquinamento di Porto Marghera, l'inquinamento della laguna, quando facevano disastri della laguna e quando hanno scavato il canale di petrolio e 100.000 altre cose. Allora le faccio rispondere da lui, perché sennò gli imputiamo delle cose. Io sinceramente non so cosa pensasse Tommaso Montanari del canale petrolio, ma non credo che fosse favorevole. Prego Tommaso. Pronto? No, è caduta la linea. Quanti anni aveva, perché era giovane, cioè, mentre ai tempi di Porto Marghera e delle lotte, mi ricordo De Michelis, prima di fare il parlamentare socialista, faceva l'agitatore dei dipendenti. Sto parlando di molti decenni fa, ma all'epoca Tommaso Montanari, esatto, lui è troppo giovane. Francesco da Padova. Francesco, eccoci. Eccoci qua, buongiorno. Allora, una piccola rettifica per Luca: le navi non passano in canale grande, ovviamente, ma sul canale della Giudecca. Detto certo. Questo, sì, sì, lo sfiorano, diciamo. Sì, sì, passano al bacino a San Marco, poi Giudecca, va bene. Ma io sono favorevole alle navi che entrano da Malamocco, dal canale dei petroli. Non capisco la polemica di Tommaso, si chiama Tommaso Montanari. Che è la polemica dei comitati però no grandinavi di Venezia, cioè non è solo lui, ecco. Sì, sì, per carità, ma dire che Venezia si spopola perché arrivano le grandi navi è veramente, non si può ascoltare. Anche a me, anche secondo me è un po' radicale. E comunque se ci si mette a vedere le navi che entrano dal canale dei petroli, ce ne sono petroliere, navi container che entrano tutti i giorni, non saranno mica le navi da crociera quelle che deturpano, no? Allora sono tutte le navi, non solo quelle da crociera. Allora, Montanari, se hai sentito quando è caduta la linea le due telefonate, questa sicuramente sì, quella precedente diceva ma aveva protestato Montanari per il canale dei petroli? Io penso, Oscar pensa che fossi bambino. Sì, ero bambino, però c'è una lunga tradizione, uno si può rileggere Antonio Cederna, c'è una lunga battaglia sulla morte di Venezia, c'è un libro di Setti recente, si chiama Se Venezia muore, il New York Times ha usato queste idee, c'è una battaglia ideale su cosa sia una città e su cosa sia sostenibile o insostenibile in una città come Venezia. Io credo che i dati di fatto, soprattutto sui residenti di una città, cioè sul fatto che la città non è una roba di pietra, lo dice uno storico dell'arte, ma una comunità viva che deve poterci vivere realmente, che non può ridursi a una monocultura turistica, sia un dato di fatto. Io sono fiorentino, vedo che Firenze si avvia a grandi passi verso quella direzione e credo che questo sia un problema serio che paradossalmente alla fine nega anche le ragioni stesse del turismo, messo che il turismo non sia soltanto quello da cartolina, cioè il fatto che le nostre città sono importanti perché mettono insieme le pietre e un popolo, non sono solo dei monumenti, ma c'è anche una comunità civile che ci vive e che non può essere soltanto la guardiana, la custode, la ristoratrice, la cameriera, perché se no è un'altra cosa, sono gli addetti a una quinta monumentale. Io credo che dovremmo porci molto seriamente questo problema, su cosa sono le città storiche, come si sostengono. Nessuno dice che le due cose sono incompatibili. Il Costituto di Siena 1309 diceva che chi governa la città deve pensare alla bellezza della città per l'allegrezza dei forastieri, quindi il turismo del 300, ma anche per la dignità dei cittadini. Allora queste due cose vanno tenute insieme. Bene, e una domanda: Montanari è in treno, sta venendo a Roma per una riunione segreta pubblica che riguarda il futuro della sinistra. Bella, una riunione segreta pubblica. Non è no, era una domanda per dare un po' di thrilling. Cosa pensa del risultato del candidato di sinistra Claudio Fava in Sicilia? Penso che sia un risultato, come dire, che sia un inizio. Sì, è un inizio importante perché c'era una sinistra unita che ha detto basta col PD e basta col centro-sinistra. Direi che il voto siciliano spunta la retorica del voto utile di Renzi, perché per battere la destra non sarebbe affatto bastato mettere insieme il PD e la sinistra. E semmai credo che il problema sia il dialogo con i 5 Stelle, che su questo bisognerebbe lavorare, che sia una strada stretta, difficile, ma se vogliamo fermare la destra a destra, l'unica praticabile. Detto questo, credo che si sarebbe potuto fare di più. Fava era sostenuto da un cartello di partiti. Io, con molti altri, pensiamo che la somma dei partiti oggi non basta, che bisogna rimobilitare la società, quella che si chiama con l'espressione orrenda la società civile, cioè i cittadini. Il problema è che la politica è troppo importante per essere lasciata solo ai professionisti della politica. Piero Calamandrei nel 1956 scrive un libro sul professionismo della politica e rischia di far naufragare il progetto della Costituzione. Erano passati pochissimi anni, cosa direbbe oggi? Smetterebbe mai i capelli, credo. Quindi diciamo è un inizio timido ma intelligente, credo che si debba coltivare. Ultimo ora, arrestato, lo citava Oscar, per evasione fiscale il deputato regionale De Luca e l'UDC, appena eletto, e già i domiciliari. Meraviglioso. E poi si dice perché non vota più nessuno, perché appunto, la maggioranza dei cittadini non vota. Esatto. Questo è il problema. Questo è il problema. E il rapes ha il problema, è questa classe dirigente, sì. Mario. Politica, io da professore universitario, è un problema di tutta la classe dirigente italiana, non solo dei politici. Mario da Piacenza. Pronto? Buongiorno a, buongiorno a buongiorno. Tutti. No, io volevo solo fare una valutazione politica dell'attività del segretario Renzi. Cioè lui si è presentato in tempi addietro proponendo una linea politica che era quella di rosicchiare voti al centro e consolidare a sinistra. Un segretario propone e interpreta una linea politica. Questa linea politica è smentita, è fallita di fatto. Oggi, in termini politici, non tutte quelle cose che si raccontano, cioè come, qual è la proposta? Perché altrimenti non ci si capisce più. Insomma, non ci si capisce più. Posso dare una risposta che ovviamente non piacerà a quelli che dicono che l'analista deve, non deve opinare. La proposta di Renzi è, la risposta alla sua domanda sono io. Come dice nei giornali oggi, se legge il pezzo di Repubblica da cui siamo partiti nella nostra analisi stamattina, torno a fare me stesso. La risposta è sono io. La leadership personale non è più, come chiede lei, la cosa che si illustra ai congressi con cui ci si impegna in un partito, come giustamente dice lei, la promessa di sfondare al centro, estendersi a sinistra, consolidarsi a sinistra, non perdere troppo a sinistra, consolidarsi e rosicchiare anche l'elettorato 5 Stelle. Quella è fallita. Dal 4 dicembre, dal referendum alle amministrative a oggi, sono tre tappe di un fallimento con la politica. Ma Renzi le risponderebbe, ma questa è la vecchia impostazione, cosa c'entra? Tu hai un leader, devi scommettere sul leader. Ecco, sono due concezioni diverse dalla politica. Montanari su Renzi. Sono d'accordo con Giannino, Renzi la pensa così. Il problema è che però c'è anche qui la realtà. Quando un leader chiede l'investitura e trascina un paese a un plebiscito su una riforma della Costituzione e perde in quel modo, e prima promette se perdo mi ritiro vita privata e poi si rimangia la promessa e ritorna in campo ora come persona, come leader consacrato, c'è una contraddizione. Cioè tu puoi essere plebiscitarista, ma se sei plebiscitarista tieni contro il plebiscito, poi lo puoi sgabolare. Renzi mette insieme Grillo e Andreotti e si deve decidere invece, perché perché è in modalità Grillo quando attacca la Banca d'Italia, in modalità Andreotti quando fa sedere in Consiglio dei Ministri Mariana Boschi, nonostante il conflitto di interessi evidente, infatti una volta è uscita perché c'era. Allora bisogna un po' decidersi, e io credo che la contraddizione di Renzi sia questo. Credo che gli italiani abbiano capito, lo si è visto il 4 dicembre, che di Renzi non ci si può fidare, perché c'è una propaganda, uno storytelling che, detto in italiano, è un'arte di contare palle, cioè una capacità di costruire cortine fumogene a cui i fatti non seguono, e lo storytelling migliore del mondo non regge in assenza di fatti sul lungo periodo. Credo che questa sia la realtà. Pino da Roma. Pronto, buongiorno Giannino. Buongiorno. Io voglio dire una cosa, è circa un anno che non sento più parlare di abolizione delle province, abolizione del CNEL, abolizione del Senato. Eppure non è che il referendum le ha bocciate, il referendum ha bocciato altre cose, ma un anno nessun politico ha più parlato di queste cose. Ma come mai? Vai Gio Oscar. Dunque, scusi, sulla abolizione della provincia abbiamo dovuto subire uno degli intortamenti o delle, come possiamo dire, manipolazioni della realtà tra Gogol e Majakovskij, direi, perché come sa le province sono abolite formalmente secondo i fautori della riforma che è passata, a prescindere dal referendum. Loro dicono che le hanno abolite, naturalmente sono enti di secondo livello, gli hanno levato i soldi, poi le competenze restano, e quindi doppio problema, perché non sono abolite e i più non hanno i soldi e però devono esercitare le funzioni. Ma perché è una classica riforma all'italiana di cui gli impennacchiati fautori hanno fatto molta propaganda in televisione per molto tempo, e i fatti poi sono quelli che dicono lei. Per questo non ne parlano più. Come vuole che ne parlino? Che argomenti logici potrebbero mai addurre per sostenere la difendibilità di un esito paradossale, ripeto, che sta tra il comico satirico, se non fosse drammaticamente vero? Sono fatte di queste cose i fallimenti di una capacità di classe dirigente. Noi non faccio una questione politica, perché sarebbe uguale il giudizio se trattasse di destra o di sinistra. Temo che il giudizio sia complessivo sulla capacità di una classe dirigente espressa dalla politica in questi anni. Non generalizzo, però l'esempio delle province, tra le tante altre cose, è un buon esempio. Altro esempio, l'esempio che ricorre sistematicamente, che adduce all'esito del referendum del 4 dicembre, che era su un testo di riforma costituzionale un po' sgangherato su alcune parti e molto opinabile per altre, come sono tutti i testi di riforma, ma quello era veramente scritto un po' coi piedi, su questo si poteva essere d'accordo anche se si era sostenitore di quella riforma. Non riguardava quella riforma il principio maggioritario della legge elettorale, eppure continuano a dire che chi ha votato no, cioè gli italiani, hanno la colpa di non aver voluto la legge maggioritaria. Ma se non l'avete voluta voi, cari partiti, della legge maggioritaria, Renzi e Berlusconi è un altro paio di maniche, ma non c'entra niente, non so come la pensi Montanari, con ciò che si è votato per il referendum. Come la pensi? Allora aggiungo subito a Montanari la domanda che arriva per lui da Livia, così può rispondere sia Oscar sia Livia, l'ascoltatrice, via SMS dice: però la proposta di Renzi è stata votata dalla maggioranza dei votanti alle primarie, finite alle primarie sono fatte dopo il referendum, e far parlare anche qualcuno un po' meno sfacciatamente parziale. E qual è l'obiezione delle primarie che lo hanno rigenerato? Montanari, questo treno è maledetto, facciamolo da subito. Gennaro da Napoli. Ah, buongiorno. Senta, guardi, io interpreto così le cose: la gente è schifata dalla politica e terrorizzata dall'immigrazione. Lo schifo per la politica ha fatto vincere i 5 Stelle e fece vincere Renzi quando parlava di rottamazione, il terrore per l'immigrazione ha fatto vincere Casa Pound, che è anzi antipolitica ad Ostia. Cioè in realtà il vero dato, quello da analizzare, è Ostia, perché Ostia ci dice che c'è la saldatura tra antipolitica e schifo per l'immigrazione. La destra regge perché è meno strutturata e meno sistema della sinistra, e quindi sotto questo profilo è più votata. Io penso che se continua così e non si trova una soluzione, vincerà Casa Pound o Generazione Identitaria o movimenti di questo tipo. Bene, chiaro. Montanari, dicevo, non so se hai sentito, un'ascoltatrice diceva: ma Renzi è stato rilegittimato dalle primarie. Allora, a parte il fatto che credo che un partito che fa eleggere il proprio segretario anche sostanzialmente da chi non è il sito, da chi passa, le primarie aperte a tutti per scegliere il capo di un partito, è una cosa un po' curiosa. Comunque sì, è vero, nulla questio sul fatto che Renzi sia il legittimo capo del PD. Infatti questo ragionamento, specialmente a sinistra, finora, fino a direi a ieri, ha ruotato intorno al Partito Democratico, come se la ditta non fosse mai la Repubblica Italiana ma solo il partito, è francamente un po' stucchevole. Ieri forse si comincia a delineare una sinistra che chiude con il centro-sinistra e pensa di dover essere alternativa al PD, a cui lascio volentieri il suo segretario, ci mancherebbe altro. Infatti il velleitarismo di un'opposizione interna che non, del PD, che non tiene conto del fatto che la maggioranza degli iscritti del PD vuole Renzi, è stato uno dei problemi. Questo non vuol dire che Renzi dica cose giuste, ma vuol dire che hai consenso. Ah, è chiaro, è una posizione interessante. E Oscar, la tua domanda. All'85% sì, gli elettori del PD al referendum, quindi una sintonia con Renzi c'è, cioè, indubbiamente. Ma certo. Secondo me c'è stata una mutazione antropologica di quel partito, di quell'elettorato, del tutto legittima, che però, diciamo, l'unica cosa legittima è far finta che non ci sia stato. Oscar, la tua domanda è, forse non l'ha sentita. No, io dicevo che cosa ne pensasse lui sul fatto che continuano a dire che gli italiani col no al referendum hanno detto no alla maggiorità. Cosa c'entra la legge elettorale col referendum? Allora, sono d'accordo formalmente, però è innegabile che, diciamo, ci fosse il famoso combinato disposto fra Italicum e riforma costituzionale, cioè c'era l'idea di una, diciamo, esecutivizzazione molto forte a danno di una dimensione parlamentare di rappresentanza, e questo è innegabile. Ma non cambiava, non cambiava neanche la forma di governo, però. Culturalmente, no, certo. Allora Montanari, oggi l'incontro unitario su precariato e povertà via Santa Croce in Gerusalemme a che ora? Alle 5, dalle 5 alle 8. Bene, buona fortuna, buon incontro. I cani e i gatti si trovano domani. L'ultimo pensierino di Oscar. Allora, il onore al ministro laburista gallese che si è suicidato. A me dispiace molto per l'accusa di molestia sessuale. Quando si finisce ai suicidi vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato. Terrore, perché pochissimo spazio viene dato allo stupratore seriale Tariq Ramadan, che insegna a Oxford e che ha quasi tante vittime quanto Weinstein. Ma siccome lui è un islamista che insegna a Oxford, allora non si fa lo stesso canizza che con Ramadan. Perché? Perché è un islamista. Non mi va bene. Ci vediamo domani, ciao!